Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri abbiamo parlato di Kaigen, un progetto che si propone di superare l'attuale tecnologia eolica per andare a prendere il vento più in alto, a 800 metri ed oltre, dove è più intenso e più costante. Ricordiamo che si tratta sostanzialmente di un aquilone, un kite, esattamente quello che utilizzano i surfisti, viene lanciato nel cielo, gli si fanno compiere delle evoluzioni e questo kite, come gli aquiloni sulla spiaggia, sale verso il cielo e tira un cavo. Questa forza fa svolgere una bobina, per così dire, che fa girare un motore elettrico e così si produce elettricità. Parliamo di quantitativi di elettricità notevoli, insomma parliamo di megawatt, equivalenti quindi alle grandi pale eoliche alte 70, 80, 100 metri. E come abbiamo visto è in corso la realizzazione dei primi impianti che dovrebbero risultare da subito più competitivi dei sistemi tradizionali e sostanzialmente competitivi con le fonti fossili. Se poi tutte queste promesse si realizzeranno veramente, sarebbe una grande rivoluzione, ma la stessa tecnica può essere applicata con opportune varianti su scala maggiore e persino per restituire alla navigazione il vento come fonte propulsiva. Do allora il bentornato a Marcello Corongiu. Buonasera. Grazie. Corongiu. Grazie, buonasera. Allora, lei è il project manager di questo progetto Kaigen. Ricordiamo che una singola stazione è fatta da una sorta appunto di canna da pesca a cui è attaccato questo aquilone. Invece voi avete un progetto più in grande che si chiama Carosello. Che cos'è? Ma sì, esattamente. In realtà quello era il primo layout, diciamo, che è stato concepito per lo sviluppo. Cioè era il progetto originale, insomma. Esattamente. Solo che è una macchina, quel carosello sostanzialmente è un enorme statore, un enorme rotore, quindi un enorme alternatore fatto ruotare da una serie di ali, di aquiloni che volano in alta quota. Ovviamente una macchina grande. Ecco, grande quanto? Perché è veramente grandissima. Diciamo che la dimensione minima è 2000 metri. 2 chilometri di diametro. Ecco, perché parliamo di un cerchio, ovvero una sorta di treno che corre su un binario circolare. Può essere visto in questo modo? Esattamente, è proprio così. Ok, a cui sono attaccati tanti aquiloni che volteggiano in qualche modo. Diciamo, alcuni aquiloni sono quelli che volano nel vento e tirano la struttura, la fanno ruotare. Tenga presente che gli aquiloni di cui parliamo non sono paracaduti, sono ali, quindi certo, una dinamica diversa e possono volare anche su angoli molto stretti rispetto al vento. Quasi controvento riescono quasi a volare. Controvento, quasi, esattamente. Sì. È molto breve la fase in cui gli aquiloni, diciamo, sono neutri e si fanno tirare dolcemente dalle altre ali che invece sono quelle che esercitano la forza per poi riprendere la fase di tiro. Diciamo. Quindi dobbiamo immaginare una sorta appunto di treno che corre su un binario circolare con questi aquiloni che volteggiano in alto e trainano questo treno che riesce in qualche modo con dei generatori a trasformare in energia elettrica. E parliamo di macchine di che potenza? Di potenza significativa, nel senso che parliamo di centinaia di megawatt minimo per arrivare fino alla classe dei gigawatt. Ecco, insomma, parliamo quindi della potenza, per intendersi, di una centrale nucleare più o meno, l'equivalente, solo che qui è eolico. Mi domando se per uscire da quel cerchio ci vuole il passaggio a livello, ma questo credo che sia poco significativo. Invece mi sembra interessante il fatto che si stia pensando anche delle applicazioni di questa tecnologia dei kite, degli aquiloni, per così dire, alla navigazione. È vero? Esattamente. Stiamo realizzando un progetto finanziato dall'Unione Europea per la sperimentazione della nostra tecnologia nel trasporto marittimo. Il trasporto marittimo è un grosso problema, che è l'environmental footprint, l'impronta ecologica, perché c'è una grande emissione di CO2, consumi di combustibile, eccetera. Una delle idee che l'Unione Europea ha ritenuto di finanziare è quella di applicare questa macchina a una nave. Ci sono delle navi che già utilizzano delle ali tipo le nostre, degli aquiloni, per la forza di propulsione, diciamo, per aiutare la nave. Cioè, proprio come si usano le vele tradizionali, insomma, vengono proprio spinte. Una vela però messa un po' più in alto. Un po' più, diciamo, in alto, a prendere un po' più vento, sì. Esatto. Nel nostro caso, invece, si tratterebbe di un'ala per produrre energia elettrica che a sua volta serve a, ad alimentare i servizi di bordo o le, i motori, insomma. E scusi, qual è il vantaggio di questo giro così complicato? Beh, perché una vela, proprio per come concepita, funziona solo su se c'è, diciamo, una collinearità tra la direzione della nave e la direzione del vento. Cioè, non, insomma, non, questa nave, se va controvento, anche esatto, non, a, non proprio controvento, non la può proprio usare. Invece la vostra sì. È questa la differenza. Esattamente. Ecco, tra l'altro, una cosa che poche persone sanno è che molte delle navi che vanno a diesel in realtà hanno un motore diesel che produce energia elettrica, che fa girare le, come dire, i motori elettrici della nave. Quindi, insomma, voi vi inserireste lì in mezzo con questo. E tenga presente che una grossa nave da crociera, per dire, ha dei generatori enormi da 50 megawatt, quindi parliamo di consumi anche molto importanti. Ecco, a proposito, quanto si potrebbe, immagino, insomma, non si possa andare solo a vela, no? Beh, no, è un servizio ausiliario, diciamo, tra l'altro con delle caratteristiche tali per cui potrebbe anche, una delle ricadute di questo sistema sulla navigazione, potrebbe anche avere una funzione di ausilio in condizioni di difficoltà della nave, ecco, la vela può aiutare. È una sorta di generatore di, insomma, di riserva. E che percentuale potrebbe fornire della spinta? Dipende ovviamente dal tipo di nave, perché ogni nave c'è il suo fabbisogno energetico. Andiamo da una copertura che può essere vicina alla totalità, diciamo, del fabbisogno per delle navi di dimensioni contenute, fino a delle porzioni più o meno rilevanti per navi più importanti. Va bene, Corongiu, grazie allora e buon volo. Cosa si dice in questi casi? Non l'abbiamo ancora studiato. Vabbè, studiate allora. Lo faremo. Grazie. Buona serata. Buonasera, buonasera. Bene, l'appuntamento è per lunedì. Buon fine settimana a tutti.